Eccoci. Shindo Guru Yezo Tungda Jaji Shivada Mendele Dan Jinu Dendele Yodan Doji Visum Sojube Chashi Dinya Dendele Yo Soje Benzame

Per prima cosa cerchiamo di, per ascoltare gli insegnamenti, generiamo la motivazione pensando in questo modo, per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, innumerevoli come gli atomi dello spazio, che sono le mie madri, devo assolutamente ottenere lo stato dell'illuminazione, il risveglio, lo stato più alto di realizzazione. Per far ciò adesso ascolterò gli insegnamenti, i preziosi insegnamenti Mahayana. Per prima cosa vorrei salutare tutti voi, c'è la prima volta che ci incontriamo. Non pensiate che io sia qualcuno che sa così tante cose. Comunque, visto che questo è il posto dove tutti noi ci troviamo adesso per la prima volta e si chiama Istituto L'Amazon K, prende il nome dall'Amazon K stesso, il testo che mi hanno chiesto di spiegare, che voi siete venuti per ascoltare, è uno dei testi più importanti di L'Amazon K, i tre aspetti principali del sentiero, per cui questo fatto mi ha fatto molto piacere e spero che anche voi rimaniate contenti. In generale, per fare adesso una piccola introduzione, quelli che sono gli insegnamenti di Buddha, se il corpo completo di tutti gli insegnamenti di Buddha assieme ai vari commentari dati dai vari esseri santi indiani, gli esseri realizzati indiani, sono più di 300 volumi. E infatti l'essenza contenuta in tutti questi 300 volumi è contenuto nella grande esposizione del sentiero graduale per l'illuminazione, che si chiama il Lam Rinchenmo, che è uno dei lavori principali di Lamazon Kappa. Ancora diciamo l'essenza, se andiamo a cercare ancora qual è l'essenza degli insegnamenti contenuti nella grande esposizione del sentiero graduale di Lamazon Kappa, è in questo breve testo dove ci sono poche strofe, che si chiama appunto i tre aspetti principali del sentiero. E comunque avrete modo tutti voi di capire di cosa stiamo parlando, perché ne parleremo appunto nei prossimi giorni. Subito all'inizio, se dovessi dirvi ecco questo, dovete praticare questa cosa perché sono gli aspetti principali del sentiero, non andrebbe bene. Perché in ogni caso bisogna un attimino sapere qual è la provenienza di questo insegnamento, che cos'è questo Dharma che fu insegnato più di all'incirca 2500-3000 anni fa. No. Se guardiamo dal punto di vista degli insegnamenti, come viene insegnato nel Dharma, gli esseri senzienti sono questi sei tipi di esseri senzienti, tre aspetti che si chiamano le rinascite sfortunate, come gli animali e così via, tre aspetti che si chiamano le rinascite fortunate, come gli esseri umani, Deva, Asura e così via. No. E a questo punto, se dovessimo dire ok, per quanto riguarda la pratica del Dharma, cos'è? Qualcosa che non è che si vede, non è qualcosa che si prende con le mani, che lo si afferra, lo si può portare con noi fisicamente, allora uno si potrebbe anche chiedere ma che beneficio è, per quale ragione è importante o si dice che è bene praticare il Dharma. Per quanto riguarda anche fra gli esseri umani ci sono tanti tipi diversi di pensiero, ci sono coloro che riconoscono l'esistenza delle vite future e per loro la pratica del Dharma è più indirizzata all'ottenere delle vite future migliori. Ma allora uno si potrebbe chiedere, ma qui in questo subito, immediatamente, per quanto riguarda questa mia vita, che beneficio ne ho? In che modo si può essere certi? Quali sono i segni, le ragioni importanti che mi possono portare a capire che è importante? Ecco, adesso magari per questo vi farò un esempio semplice. Per quanto riguarda il progresso tecnologico, se guardiamo all'inizio quello che potevano essere delle scoperte tecnologiche importanti, come i primi registratori, i primi modi di registrare la voce all'inizio del secolo, negli anni 20, 30 e così via, adesso sono obsoleti, non sono di nessun beneficio quel tipo di oggetti. Perché? Perché il progresso tecnologico è avanzato, per cui ci sono delle cose molto migliori, non abbiamo assolutamente bisogno di quelle cose. Ma allora Tenrenza dice per cui questi oggetti diventano obsoleti con l'avanzare del tempo, perché c'è sempre qualcosa di meglio, per cui scompaiono. Mentre invece, per quanto riguarda la pratica del Dharma, è qualcosa che è stato insegnato 3.000 anni fa in un particolare posto, e col cambiamento dei tempi, con i tempi moderni, ha avuto un'espansione molto più grande di quello che aveva prima. Perché? Perché in realtà il Dharma non diventa obsoleto, anzi, diventa, migliora sempre di più col tempo e sempre più di beneficio. Per questa ragione, anche al giorno d'oggi, si pratica il Dharma così dappertutto, benché sia stato insegnato 3.000 anni fa. Ci sono moltissimi, al giorno d'oggi, moltissimi che si suicidano. Perché arrivano mentalmente, queste persone si trovano a dei bividi di totale depressione, dove non hanno nessun tipo di speranza e giungono al punto di pensare che sia meglio uccidersi. Io non c'è che da fare roba carcica, non ci chiamo a quando Per cui a questo punto come cosa potrebbe aiutare, che cos'è che potrebbe aiutare queste persone? Come, perché il Dharma invece potrebbe aiutare queste persone? Come? Per cui che cosa succede? A questo punto, sia dal punto di vista del Dharma, se parliamo del Dharma, degli insegnamenti di Buddha, ma anche dal punto di vista di tutte le persone che sono comunque hanno una religione, hanno, che si affidano, sia per cristiani o comunque indù, eccetera. Che cosa succede? Nel momento in cui sperimentano le persone che veramente praticano gli insegnamenti delle loro tradizioni, qualunque essa sia, questa cosa, il vero beneficio di questa pratica si vede nel momento di grande difficoltà. Così come quelle persone che si suicidano perché affrontano dei momenti di grande difficoltà e non hanno nessun rifugio, non hanno nessuna, non possono afferrarsi a niente per essere protetti, per sentirsi protetti da questa loro disperazione e si suicidano. Mentre invece, che cosa succede se una persona è buddista? Allora, in quel momento, che con i momenti di grande difficoltà, pensa, comprende che questi sono dei risultati che dipendono dalle azioni, dai loro risultati. Mentre invece, per esempio, una persona che è cristiana pensa a Dio, pensa a Gesù Cristo, si affida mentalmente, trae respiro da questo tipo di affidamento, se una persona indù, da quelle divinità indù e così via. Mentre invece la persona che non ha nessun rifugio nel momento di grande disperazione, che cosa fanno? Si suicidano. Per cui vedete che non importa quanto sia antico quel particolare tipo di insegnamento, anche ai giorni nostri, nei tempi moderni, queste cose sono estremamente d'aiuto, proprio nei momenti difficili. Per cui vedete che c'è una grande differenza fra quello che è il progresso tecnologico, le cose che costruivano all'inizio molti anni fa, adesso sono completamente obsolete, perfino i negozi che le vendevano non esistono nemmeno più, mentre invece, per quanto riguarda gli insegnamenti spirituali, sono di odierna importanza. E comunque non è che adesso posso dirvi con certezza al 100% che chiunque veramente segue il proprio percorso spirituale sarà una persona che non è impossibile che questa persona si giunga al punto di suicidarsi, non si può dire questo al 100%, però si può vedere chiaramente che quelle persone che hanno un tipo di rifugio interiore, per qualunque esso sia il loro rifugio interiore, nei momenti difficili hanno meno possibilità di autodistruzione e di grande sofferenza, hanno del sollievo dalla loro sofferenza. Non solo, i tempi che stiamo vivendo noi adesso, in questo periodo, sono dei tempi particolarmente difficili anche dal punto di vista di quelle che sono le calamità naturali. C'è una grande trasformazione, quello quando parliamo del del riscaldamento globale, c'è una grande trasformazione degli elementi, gli elementi anche sembrano essere in contrasto, cioè è come se fossimo sempre sottoposti a una grande pioggia di disastri, sia disastri che vengono dagli elementi, dall'acqua, dalla terra, dal fuoco, disastri economici, e così, cataclismi naturali, c'è una continuità di questa esperienza. E sulla base di questi fatti, questi fatti che cosa portano? Portano grande paura, portano grande sconforto e grande paura. E dal punto di vista degli insegnamenti del Buddha, degli insegnamenti di Dharma, perché avvengono queste cose? Queste cose sono come il risultato, sono una fruizione, il risultato di quelli che sono il corpo, parola e mente degli esseri che sono completamente indisciplinati, completamente lasciati andare in un modo negativo. Il risultato di questo è questa esperienza collettiva che abbiamo. Pensate che forse alcuni di voi pensano che adesso io stia un po' esagerando, no? Per cui questo non è il caso, è un po' come non è che sto protestando, non è che sto facendo una protesta sociale come per esempio potremmo fare verso coloro che sono i leader dei nostri posti, dal momento che economicamente stiamo tutti male in questo momento, la prima cosa che facciamo è che cosa facciamo? Indichiamo come la sorgente di questi problemi sono i nostri leader politici, no? Però in realtà non credo io che sia proprio così, altrimenti se tutti i nostri problemi, anche quelli sociali, fossero veramente nelle mani di quelli che sono i nostri rappresentanti politici, allora basterebbe cambiarli e mettere esattamente chi vogliamo, che tutti i problemi sono risolti, invece non è proprio così. Il consiglio dal colui che pratica il Dharma, che cosa pensa? Qual è il consiglio che viene dato? Che cosa deve fare? Nel momento in cui ci sono queste grandi difficoltà, quello è un segno chiaro di mancanza di meriti, per cui bisogna accumulare meriti, bisogna accumulare energia positiva, azioni virtuose, su quello che bisogna fare. Il praticante del Dharma che cosa pensa? Pensa che in ogni caso questi sono appunto i risultati delle proprie azioni che vanno purificate, per cui pensando in questo modo, quello che prima può apparire come un peso, un grandissimo peso che uno porta sulle proprie spalle, pensando in questo modo, questo peso improvvisamente è più leggero, è più facile portarselo appresso. Ma non solo, coloro che sono anche dei praticanti che sono già avanzati nella pratica del sentiero, più sperimentano difficoltà, più sono felici, arrivano a un punto in cui sperano di poter affrontare ancora più difficoltà, ancora più problemi, perché quello gli porta più felicità. Pendolo di un'altra, Per fare questo, per arrivare al punto in cui la propria mente è così forte, si ha questo tipo di coraggio, non avviene così improvvisamente. Questo tipo di coraggio, questo tipo di forza interiore è qualcosa che deve essere costruita piano piano tramite lo studio e la pratica, tramite tanto studio e tanta pratica. Senza applicarsi in quel modo lì, pensare di poter raggiungere questi tipi di capacità e di coraggio è impossibile. Anzo du stena pa khashi ji logres ko ngal ne ja ko ngal le gne pius ko ngal ji ko me bin ja ji chi du pa zu zu ji zu gu yores ta nang ga che chen zu zu zu gu yores ye kang ga ken zam res kang ga zum ge de kara sen su su ji ji ran chin zi ta dan zi ma ru ni ge ta o da kang kang ga sum ge de o da. Quello che vedete normalmente, che cosa facciamo tutti noi, comunque tutti, la maggior parte degli esseri, i problemi vengono sempre da fuori, non vengono mai da dentro di noi. I problemi li vediamo che vengono da fuori, o è l'ambiente, o è quella persona mi danneggia, quello mi ha fatto così, o non ho il lavoro, non ho questo, non ho quell'altro. Vengono sempre da fuori. Indichiamo sempre la causa principale del problema esterna da noi. Mentre invece con la persona che veramente pratica il Dharma, la causa principale del problema non è affatto fuori. Quello che sono fuori sono solo delle circostanze che fanno sorgere quello che è la causa principale, che è dentro ciascuno di noi. Il praticante del Dharma pensa così. Il problema non è fuori, il problema viene dal mio egoismo, da quell'attitudine mentale, dall'egoismo, viene dall'ignoranza che si afferra a un sé. Questo è il modo in cui il praticante del Dharma procede, che è praticamente l'opposto di quello che stiamo facendo noi. Per esempio in Tibet abbiamo questo modo di dire. Adesso dico in Tibet non vuol dire che tutti i tibetani sono bravi, che tutti i lama sono bravi e che tutti i geshe sono bravi. No, ci sono tibetani e tibetani, ci sono geshe e geshe, ci sono lama e lama. Però in generale questo è un modo di dire in Tibet che è piuttosto profondo, se ci pensiamo. Se vuoi sapere chi eri, guarda quello che è il tuo corpo adesso, quello che è la tua vita adesso. Se vuoi sapere chi sarai, guarda qual è la tua mente adesso. Questo è molto profonda, questo tipo di analisi, anche se sembra così come un piccolo proverbio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che benché quello che si presenta adesso, quello che è l'esperienza nella nostra vita, la totalità delle varie esperienze di quello che abbiamo e che sperimentiamo in questa vita, benché certo dobbiamo sempre fare qualcosa perché queste condizioni avvengano, non è che uno basta adesso smette di fare qualunque cosa sta facendo e la cosa continua in quel modo lì, però cosa vuol dire? Vuol dire che le cause... Quello che sperimentiamo adesso è già una maturazione completa di cause che sono state poste nel passato. C'è poco da spingere per avere di più o cambiarlo. È quello che è, perché è già maturato. È quello che è. Per cui, che cosa succede? Invece di accorgersi di questa cosa qua, noi che cosa facciamo? Non siamo mai soddisfatti di questo tipo di esperienze. Cerchiamo di fare tantissime cose per cambiarla in un modo in cui non può essere cambiata, perché le cause sono già state poste nel passato e questo è già qualcosa di maturato, che è così. Però quello che possiamo fare adesso in realtà, senza stressarci e essere ossessionati col fatto di dell'immediatezza. L'immediatezza è quello che è, quello non può essere cambiato. Però quello che possiamo cambiare quello che andremo a sperimentare nel futuro. È su quello che bisogna concentrarsi. Per cui il consiglio che cos'è? Quello di essere contenti e soddisfatti di come si è, di quello che si ha adesso, e di prepararsi per il meglio, di mettere le condizioni migliori per quello che sarà il futuro a venire. No, per esempio, se magari abbiamo un bel appartamentino in città, però a quel punto pensiamo, no, forse ho bisogno anche di una casa in campagna. Magari abbiamo una bella macchina, però ne esce una macchina nuova, no, forse abbiamo bisogno, non abbiamo più una bella macchina, abbiamo improvvisamente bisogno di un'altra bella macchina. Questo è il modo in cui ci mettiamo in relazione con qualunque tipo di oggetto e di esperienza, no? E per far ciò, a questo punto non devo neanche mettermi a spiegarvi che cosa succede, perché questa è proprio esattamente la vostra esperienza. Quanti problemi, quanti sacrifici, quante sofferenze andiamo incontro e sperimentiamo proprio a causa di queste cose qua, a causa di non essere contenti e soddisfatti di quello che siamo e quello che abbiamo. Oppure per esempio ecco che non solo per quanto riguarda i nostri partner, li cambiamo come cambiare vestiti ogni giorno, non siamo mai contenti. Abbiamo un partner, abbiamo un fidanzato, una fidanzata, una moglie, un marito, li cambiamo, siamo pronti a cambiarli continuamente, proprio come cambiare i vestiti, non siamo mai. Questo che cos'è? È il segno chiaro del fatto che non siamo mai contenti e soddisfatti con quello che abbiamo. E questo è un segno chiaro anche della degenerazione dei tempi, ma probabilmente in passato non è che avvenisse in questo modo. Per essere felici anche a livello immediato, l'attitudine di essere contenti e soddisfatti con quello che abbiamo, non importa cosa abbiamo, non importa che tipo di finanze abbiamo, che tipo di oggetti, partner, essere contenti e soddisfatti con quello che abbiamo, quella è la chiave della felicità. Questo è il consiglio fondamentale del praticante del Dharma. Adesso non è che sto dicendo voi siete così, anche il mio modo di parlare, lo so, è piuttosto diretto, non sono capace di parlare in un modo soave e delicato. Quello che penso lo dico piuttosto direttamente, ma non sentitevi, non arrabbiatevi, non sentitevi colpiti personalmente, non è che sto indicando personalmente voi. Perché è possibile che qualcuno di voi stia pensando che mi sta sgridando a me personalmente, mi sta dicendo a me delle cose. Non è assolutamente vero. Non sto dicendo delle cose personalmente a nessuno di voi, sto solo parlando di un'esperienza generale. Per cui non sarebbe assurdo, sarebbe un po' un assurdo venire a prendere gli insegnamenti del Dharma e mentre prendiamo gli insegnamenti anche arrabbiarci per quello che sentiamo. Per cui se Se avete, se pensate bene, avrete le cose che vi dico, anche se non vi sembrano dette in un modo eloquente o in un modo dolce e tranquillo, vi saranno di grande beneficio. In realtà ve le dico neanche troppo dalla mia esperienza personale. Il punto è che ho sentito questi insegnamenti da tantissimi grandi maestri e ve li sto ripetendo. Bene, da c'è da leggi. Tudan zhe vun nam xia dang, xue sheng di yi ji ya gu yu na, yong ge mi ji jian se na. Tidak zan ni meng ge mi ji jian se na ba yi na. Da meng ga ji gu na qian, da gu nyi da roha jia ya mendo, smi gu roha jia ya mendo se na. Wa da, tudan zhe vun la yi ji yong ge da, gun jo yi ji ji yun ta, gun jo ji qi gu ta, ta ga re sam ni, mi di hulio ya re se. Ji da yang xue meng ge mi ka xia, da hulio yong ge re se, ji yi se ne. Da, чиг да кенсере суд каре чугна самсачэни о да чөймөнгө дел канын чөмөтөт манзу томжо жобо юнгурэс но per esempio anche andiamo vi sto parlando proprio così direttamente di qualcosa che possiamo che abbiamo che è la nostra esperienza di tutti quanti. Per esempio una persona prendiamo due persone che si ammalano di una malattia pesante, sono in ospedale, per esempio hanno il cancro, un tumore. Una persona pratica il Dharma o ha compreso il modo della causa, dell'effetto e dei suoi risultati e così via, oppure magari anche una persona solamente fede in Dio, in Gesù, e invece quelle persone che non hanno niente, nessun affidamento, nessun percorso spirituale, ma piuttosto materialiste. L'esperienza, il modo in cui vivono la loro esperienza e anche il dolore che sperimentano è completamente diverso. Molto probabilmente la persona che pratica il Dharma, che comprende le esperienze sono dei risultati delle proprie azioni, così pure anche la persona che ha fede in Dio, per esempio, o in Gesù, o comunque che ha una fede spirituale, riesce ad arrivare a dei termini molto più tranquilli con la propria malattia, a vivere la propria malattia in un modo più tranquillo e più felice che una persona che invece è completamente materialista. Questa persona comincerà a pensare: ma perché proprio a me? Perché il cancro? Perché questo e quest'altro? Per cui alla malattia aggiungerà anche tantissime preoccupazioni che mentre probabilmente le altre due persone non avranno. Questo lo sappiamo tutti, no? Bene, ma prima quello... Per esempio nel 1959 저기 뭔가 연구 통해서 뇨마선 가게 맞이고 지금도 살이 뭐지 다시서 진짜 제발 해야지 생각이 됐어. Per esempio, questa è una cosa che abbiamo vissuto noi direttamente nel 1900 fino al 1959, prima dell'invasione dell'armata cinese in Tibet, moltissime persone vivevano una vita piuttosto tranquilla, agiata, per quello che poi potevano essere poteva essere il lusso di quei tempi lì, avere i cavalli, avere delle belle selle, avere avere tanto burro, tante di queste cose che comunque erano segno di ricchezza e di agiatezza di quel periodo lì. Poi improvvisamente tutte queste cose sono scomparse. Improvvisamente queste persone si sono trovate con niente, a non avere più niente, da un momento all'altro, essere anzi in una condizione di estrema difficoltà. Con le persone, lì venne fuori chiaramente il fatto che le persone che veramente avevano qualcosa dentro di loro, avevano praticato il Dharma, avevano un percorso spirituale, per loro, per queste persone qua, l'esperienza non fu traumatica per niente, non fu proprio lo vissero in un modo molto, molto diciamo relativamente molto più tranquillo. Pena ngaran xa xa nis, lo jeb ye yins. No, no. Pawa ama jigba ge nganzo nga yus. No. Ama, pawa de xe ca su ama xa, pinja xe xa ni, yon bins. Kaya, chio nyamne de xirame de ta, lehe ge tebe re samne, samdea kaya mendoos. Per esempio, per quanto riguarda la mia esperienza, io vengo da una famiglia piuttosto... Vengo da una famiglia piuttosto numerosa, relativamente numerosa, eravamo 5 fratelli, il papà era già morto in quel momento lì, però c'era la mamma e poi c'erano... La mamma, durante quel periodo lì, mia mamma morì e i 4 fratelli morirono, rimasi da solo e mi trovai a affrontare questa fuga, questo passaggio in questo modo. Però proprio perché avevo 18 anni, ero giovane, però già lo pensavo bene, l'avevo un pochettino pensato, capito dentro di me che le esperienze che uno passa dipendono sul risultato delle proprie azioni. Questo pensiero qua mi fece attraversare quelle difficoltà senza paura, senza disperazione. E dopo un anno, nel 1960, arrivai in questo che era un ex campo di concentramento a Baxadur, in India. E dove c'erano lì rifugiati 1500 monaci di tutte le 4 tradizioni del Tibet. Saya samsung rubares, samsung yaguyores, chogodosunun chumangbudunun misho. E quello era appunto un ex campo di concentramento della Seconda Guerra Mondiale, dove avevano allestito nelle baracche il primo campo profughi temporaneo dei tibetani che arrivavano dal Tibet. Da mangiare c'era pochissimo, quel poco che c'era da mangiare era più delle volte era già anche andato a male e non c'erano soldi per comprare niente, e anche se avessimo avuto dei soldi non c'era niente da comprare, e quando avevamo fame l'unico modo di riempire lo stomaco, di alleviare la fame temporaneamente, era quello di bere dell'acqua. Avevamo continuato a portare avanti i nostri studi, questi 1500 monaci che eravamo lì, e anche non c'erano i testi perché eravamo rifugiati, per cui c'era praticamente un testo di studio da dividere ogni 20-30 monaci. Non c'era, anche se volevamo prendere appunti o scrivere giù quello che ci dicevano, gli insegnamenti, tutto quanto, non c'era inchiostro, non c'era niente. Per cui anche se per poter scrivere, che cosa facevamo? Utilizzavamo la polvere, diciamo, non neanche la cenere, quella polvere nera che si forma quando le candele bruciano su un pezzo di carta, diciamo, mettendo vicino un pezzo di carta, la fuliggine del fumo della fiamma, e utilizzavamo quella, cercavamo di accumularne il più possibile e poi veniva utilizzato per poter scrivere. Queste erano le condizioni in cui vivevamo. E comunque la maggior parte di quelle persone, nessuno anzi era veramente disperato, anzi da lì le persone che sono venute fuori da quel tipo di esperienza, che hanno studiato in quelle condizioni, sono considerati come gli studenti migliori, quelli che hanno imparato di più. Adesso qualcuno di voi magari si chiede: ma perché ci sta raccontando queste cose? Che cosa vuol dire? Perché questo è un insegnamento che non importa quante difficoltà si devono affrontare o si affrontano nella vita, se si è compreso il modo delle azioni, dei loro risultati, della causa e dell'effetto, non importa quanto sembrano difficili queste cose, non diventano difficoltà. Per cui, visto che siete venuti qua per imparare qualcosa, per la prima cosa che vi voglio dire è proprio questa. Voglio dire di non pensate a quello che avete o che volete avere. Siate contenti, soddisfatti di quella che è l'esperienza e quello che possedete nella vostra vita e cercate invece di studiare, di imparare, di capire, di praticare il modo delle azioni, dei loro risultati, della causa e dell'effetto, perché quello è la cosa che vi serve. Mm. Comunque, allora, che cos'è? A questo punto magari qualcuno di voi si chiede, beh, allora è questo? Questo è tutto quello che è l'insegnamento del Dharma? No, assolutamente, questo non è neanche l'inizio di quello che è l'insegnamento del Dharma. Perché stiamo ancora solamente parlando di un beneficio e di qualcosa che è inerente ai confini di quello che è questa breve vita. Tanto per cominciare, ci sono vari livelli di progressione in quello che uno può dire, ecco, questa è la pratica del Dharma, questi sono gli insegnamenti, ciò che va praticato. Per esempio, ed è giusto per noi andare a comprenderlo, andare a analizzarlo, così come siamo molto specifici nelle nostre cose. Per esempio, adesso è il tempo delle vacanze, no? Siamo in vacanza, molti di noi. Quando andiamo in vacanza, che cosa facciamo? Se, per esempio, viviamo in un posto che normalmente è molto caldo, allora cerchiamo di andare in vacanza in posti che sono freschi. E andiamo a guardare, ma in quel posto lì c'è la montagna, ma com'è questa montagna? Qual è la temperatura che c'è in quel posto lì? Ci sono i laghi? Si può? Allora è fresco, si sta bene, così anche se invece viviamo in un posto freddo, in un posto caldo, ma non solo. Ci informiamo, ma in quel posto lì che cosa succede? Se per esempio abbiamo anche comprato i biglietti d'aereo, i biglietti del treno, improvvisamente in quel posto succede che due o tre persone si ammalano, c'è come un'epidemia, allora basta, cancelliamo e cambiamo il posto. Per cui prepariamo prima per dove andiamo, giusto? Ecco, nello stesso modo, la pratica del Dharma è proprio questa, è quella di preparare adesso per dove andremo dopo, per dove ci dirigeremo. In generale tutte le tradizioni spirituali parlano di un bivio, alla fine della vita, giusto? Ci sono due modi, o vai su o vai giù. Questo è qualcosa che in generale è accettato da tutti, anche quelli che non necessariamente quelle tradizioni religiose che parlano di vite passate e future. Però il momento in cui ce ne andiamo non è come quando le vacanze che poi magari possiamo pensarci prima e cambiare vediamo quel posto lì, non era esattamente quel posto che pensavamo, allora magari cambiamo il biglietto d'aereo e andiamo da qualche parte. No, a quel momento lì prendiamo e andiamo, ma non solo, non è come in vacanza che ci possiamo portare dietro il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, i nostri figli, i nostri amici, le nostre cose. Lì non possiamo portare dietro con noi assolutamente niente, ce ne andiamo e andiamo dove andiamo. Che cos'è? Cos'è che spinge la nostra direzione, che decide decisamente dove e come sarà la nostra destinazione? In un modo semplice, per dirlo in parole semplici, che cos'è che lo decide? Lo decide le qualità delle azioni del nostro corpo, parole e mente, quello che abbiamo fatto durante la vita, come il modo in cui abbiamo usato il nostro corpo, la nostra parola, la nostra mente, quel modo maturerà in quello che sarà una destinazione o migliore, per cui si dice si va su, o peggiore, vuol dire si va giù. No, per cui quando si parla di giusto modo di o modo sbagliato di utilizzare, di agire col corpo, parole e mente, ecco che lì parliamo di virtù e non virtù, ovvero sia azioni virtuose e azioni non virtuose. E comunque non pensate che questa sia una cosa piuttosto, così come sembra, semplice da capire e data per scontata, perché non è affatto così. Il veramente comprendere quali sono tutti i vari livelli di grossolani sottili delle azioni che compiamo col corpo e parola e mente, di quelli che sono i risultati che provengono da queste azioni che poi sperimentiamo come felicità e sofferenza, è qualcosa di estremamente profondo, molto complicato, che deve essere approfondito, studiato, analizzato. Questo è qualcosa che anche Santità Dalai Lama, quando viene in Europa, continuamente lo dice. Per praticare il Dhamma bisogna studiare, bisogna guardare molto, bisogna pensare. Non è qualcosa che viene semplice. Per esempio, ci sono tanti soggetti che uno pensa nel Dharma che siano così complicati, come per esempio, sto andando troppo forte, per, insomma, come per esempio la vacuità, sembra questa cosa così complicata. In realtà il modo delle azioni e dei loro risultati è molto più profondo, molto più difficile da comprendere della vacuità. Per cui ci sono vari modi di comprensione, non pensate che avvenga tutto così facilmente o sia per scontato o sia dato per scontato, e se avete interesse è qualcosa che dovete veramente applicarvi, studiare e cercare di comprendere. Comunque, per rimanere a un livello semplice, E comunque adesso per questa sera mi devo scusare con coloro che sono già dei praticanti del Dharma, dei vecchi studenti, perché magari vi sto annoiando. Però così lo dico anche quando io sono residente in Spagna, in un centro in Spagna. Di solito tengo, quando si fanno questi corsi di meditazione, le persone nuove sono più importanti, per cui sto parlando principalmente a loro. In ogni caso, visto che proprio coloro, voi che siete degli studenti già con quelli che sono degli studenti che hanno esperienza nella pratica del Dharma, lo sanno che solo ascoltare il Dharma porta dei grandi benefici, per cui non credo che abbiate dei problemi. Adesso per coloro che sono veramente degli studenti anziani che hanno incontrato i lama del passato come Kyabjesong Rinpoche, che parlavano molto direttamente questi lama, vi ricorderete che una delle cose che Rinpoche diceva è per quando ascoltare colui, la persona che veramente pratica il Dharma, ascolta il Dharma come un alcolizzato, ovvero sia più beve più vuole bere. Nello stesso modo, più ascolta il Dharma più ne vuole ascoltare. Vi ringrazio per questa sera, ci fermiamo, abbiamo passato il nostro tempo. Sangye shindu midem buruage Dronam dajina jeva Dajoye dam Guru rana mendela Nirya dayame Tazo jini sabbe gewa Ditendan doa Kula kambina Kevara jizu losan chabai Tembe nyingbu rindu seji sho Chanju Simjo Rinpo Chin Ma Ji Ki Gyu Chi Ki Wa Nyamba Me Wa Yang Kone Kondo Be Wa Jo Jambe Bo Wu Ji Dara Jin Ba Ta Kondo Sangbo Teyang Te Shi Di Te Da Kun Ji Ji Su Da Lu Ji Ki Wa Di Da Tam Je Rab Tu Mu Tu Su Shi Be Kya Wa Tam Je Ki Moa gana chodo mabandi Dagi ke tsawa dikunkya Sambu chuje radu mabandi Kari rave guwe shingandi Penda dewa malun juwene Chere sinwa tenzingya zoye Shabe sidi badu dengyo